Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Che voto dà al lavoro della squadra finora? Io gli do un buon voto perché questo è il campionato più difficile della storia del calcio italiano. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. L'ultimo baluardo, Fofana passa in area di rigore, Fofana! È clamoroso quello che accade alla Dacia Arena, vince l'Udinese nel recupero probabilmente la partita. È chiaro che noi possiamo e dobbiamo essere più solidi, non è un momento in cui ci dobbiamo mettere la testa neanche più di tanto. Come ho detto prima, in questo momento non c'è modo di lavorare moltissimo e quindi dobbiamo tenere la testa libera e pensare a domani, pensare a entrare in campo a un grande livello di determinazione e motivazione. La Champions è una manifestazione affascinante, però poi la manifestazione secondo me su cui si deve valutare una squadra è il campionato. Un campionato, una manifestazione dura 10 mesi, quest'anno 12, quindi è quella più indicativa sul lavoro fatto da una squadra. Ci sono 2 settimane alla partita Champions, quindi noi abbiamo ora 7-8 giorni da dedicare solo e esclusivamente al campionato, senza nessun secondo pensiero. C'è la voglia di andare all'obiettivo e senza perdere la testa, abbiamo fino al 2 agosto per andare all'obiettivo, domani è una possibilità e la dobbiamo affrontare con questo spirito, con combattività per andare all'obiettivo, perché come ho sempre detto esserci vicino conta zero. Eccoci qui ragazzi, in diretta conta zero, andare vicino all'obiettivo conta solo raggiungerlo. Questo è Sarri che parla oramai da juventino maturo, e cioè secondo la tesi per cui conta soltanto vincere. E del resto oggi è una grande domenica, perché questa sera al termine della partita, quindi intorno a mezzanotte, avremo un verdetto: o la Juventus avrà vinto il suo 9° scudetto consecutivo, come è normale, forse anche giusto che sia, e allora molte delle polemiche di questi ultimi giorni saranno dimenticate, o se non sarà così per qualsiasi ragione, e quindi evidentemente se la Juventus non avrà battuto una Sampdoria che non ha più nulla da chiedere al campionato, non ha più nulla da chiedere a questa partita, si aprirà un'altra settimana calvario per Maurizio Sarri, con il paradosso, e da qui partiamo, che io credo che raramente un allenatore che sta per vincere lo scudetto è stato così discusso come Sarri di questa stagione. 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta, 349 238 6666, sms e whatsapp. Tra qualche minuto seguiamo anche Bologna-Lecce, che è la prima gara di questa domenica della 36esima giornata di campionato di Serie A ed è anche una delle più interessanti, perché il Lecce deve assolutamente vincere se vuole tenere viva la speranza di salvarsi. Stiamo seguendo anche l'ultima giornata della Premier League, che è cominciata 8 minuti fa. Ci sono 2 verdetti ancora aperti, i 2 posti, gli ultimi in Champions League per accompagnare Liverpool e Manchester City, con un bellissimo Leicester-Manchester United e con il Chelsea che gioca con i Wolverhampton. 2 vanno in Champions League, 1 resta fuori, e poi c'è la corsa salvezza che ci interessa da vicino, perché c'è il Watford dei Pozzo e le notizie non sono buone, perché il Watford è già sotto a Londra contro l'Arsenal dopo 5 minuti, calcio di rigore di Aubameyang. E dunque in questo momento il Watford dei Pozzo sarebbe retrocesso in Premiership. Saluto Carlo Genta, ciao Carlo. Ciao Giovanni, ciao a tutti. Domenica ricchissima, ciao. Domenica in cui veramente non ci facciamo mancare niente. Ovviamente parleremo anche della MotoGP e di quello che abbiamo visto a Jerez nella seconda gara in 7 giorni. Saluto Alessandro Birindelli, ciao Alessandro. Ciao, buon pomeriggio. C'è anche Pierre. Ciao, ciao ragazzi. ragazzi, ciao a tutti. Ciao, eccoti. Ale, ciao Carlo, ciao. Eccoti, ciao, eccoti, ciao. Eccoti. Allora, partiamo, se siete d'accordo, con la Juventus. Io trovo tutto paradossale, ragazzi, ve lo dico, che la vigilia di un possibile scudetto sia stata attraversata da così grandi polemiche sul voto da dare all'allenatore, sul suo stesso futuro sulla panchina. Alessandro? Ma chiaramente tutto nasce da una valutazione iniziale di questo allenatore. Cioè, il pensiero su Sarri era che portasse un gioco spumeggiante, che portasse un'identità di squadra diversa, che portasse una squadra a un livello diverso per quanto era la visione precedente con l'allenatore precedente. E tutto questo non lo abbiamo visto, non solo per colpa sua, ma secondo me poi la Juventus come società qualche errore lo ha fatto inizio anno, facendo prima un mercato e poi scegliendo l'allenatore successivamente. Molto probabilmente tanti giocatori non sono ideali per quel tipo di calcio che vuole l'allenatore. Lui è stato bravissimo sotto l'aspetto tecnico-tattico ad aggiustare qualcosina, mentre all'inizio sembrava essere e rimanere di quell'idea di calcio, di quell'idea di difesa, di quell'idea di andare a attaccare sempre la palla in alto. E si è rivisto, è stato bravissimo. Poi chiaramente, secondo me, se proprio devo criticare Sarri, sbaglia ogni tanto nella comunicazione, nel come affronta le conferenze prima e dopo le partite, quando gli vengono fatte chiaramente degli appunti su una cosa, su un giocatore o su un periodo. Secondo me in alcune circostanze scivola un po'. Ha fatto il provinciale perché secondo me lui è molto onesto, una persona vera, una persona sincera, però te devi sapere dove sei. Lui secondo me ogni tanto si dimentica che è alla Juventus e non è all'Empoli, con tutto rispetto per l'Empoli, con tutto rispetto per il Napoli. Quindi secondo me nella comunicazione... Cioè, tu dici non si può andare in conferenza stampa a dire mi criticano perché sto sulle palle ai giornalisti e ne so comunque Juventus, più di loro. Bravissimo. Nella Juventus e sai che la Juventus... È la prima squadra in Italia, quindi tutti vogliono e cercano di creare una, non ti dico una notizia, però chiaramente portare questa squadra a dargli un po' fastidio, portare la notizia a un fastidio all'interno di... Ma se te non sei forte e non sai affrontare questo, secondo me qualche difetto o qualche domanda te la devi porre. Io dico solo questo, poi come allenatore io non lo discuto, anzi lo apprezzo tantissimo. E credo che se il progetto andrà avanti l'anno prossimo, molto probabilmente tre o quattro giocatori devono prendere i suoi. Adesso ne parliamo, Ale. Adesso ne parliamo perché c'è anche un passaggio della conferenza di ieri che insomma è abbastanza significativo di quello che è il momento di Maurizio Sarri. Coinvolgo anche Carlo Pier, coinvolgo tutti, 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta, vi aspetto se siete tifosi della Juventus o anche no, per vivere queste ore di vigilia un po' surreali, che questa domenica che può portare al nono scudetto di fila della Juventus. L'aspetto comunicativo, ragazzi, ne abbiamo parlato molto dall'inizio, certo. Dico però che oggi molte delle critiche arrivano anche per quello che si vede in campo, un po' contraddittorio. Ma sì, infatti il tuo discorso è giustissimo, nel senso che è chiaro che è un paradosso, però è anche vero che non è che la Juve prima di Sarri fosse una squadra che arrivava quarta, terza o settima. La Juve viene da 8 scudetti consecutivi e ha fatto questo tentativo che io non considero sbagliato. Penso che ancora Sarri sia padrone del suo destino e possa fare grandi cose, cioè non è ancora ovviamente finito nulla, anzi stasera può diventare campione d'Italia e molto probabilmente lo diventerà. Quindi però questo sì, anche clima, se sembra un dettaglio, ma a partire per molti tifosi della Juventus. Non è un dettaglio, però insomma, è il discorso di prima, cioè succede in qualsiasi parte del mondo. Se il Bayern vince 8 volte di fila lo scudetto, e poi non è che il nono anno lo scudetto viene vissuto come un'impresa clamorosa, cioè è la natura umana. è diventata l'abitudine la Juve che vince il campionato. Poi è giusto dire che non è se lo vincerà al 99,9%, probabilmente lo vincerà stasera. Poi è giusto che venga celebrato e che venga riconosciuto il merito, perché vincere non è mai banale. Però questo vale anche per Allegri, nel senso che Allegri è stato trattato lungamente come uno, da alcuni e non da noi sicuramente, come uno così così, e poi invece quest'anno si è visto che vincere la Coppa Italia, vincere la Supercoppa italiana non è una cosa che ti porti da casa solo perché hai la squadra che è sicuramente la più forte e la più ricca. Poi vai in campo e devi confermare questa tua superiorità. Detto questo, Sarri è ancora padrone del suo destino, nel senso che comunque il vero territorio sarà la Champions. Poi adesso ci chiediamo se sarà pronto Carlo. Carlo, vai. No, ma l'analisi di Alessandro è perfetta dal punto di vista della comunicazione, però questo si sapeva già prima di prendere Sarri, cioè che Sarri dal punto di vista comunicativo era questo tipo qua, lo sapevi già da prima, tanto che lo chiedemmo, ti ricordi bene, anche ad Andrea Agnelli, questa non perfetta corrispondenza, facciamo così, della Sarri comunicatore con la Juventus. E quanto al resto, tu hai ragione, sono paradossali le critiche che vengono fatte, ma sono anche normali, perché la Juventus è una squadra senza identità, non è più quella di Allegri, cinica, che si prendeva di forza il suo, non è ancora quella di Sarri, che vedi soltanto a tratti nel possesso di palli in alcuni momenti della partita, e la conseguenza è una squadra intermittente come una lampadina di Natale. Sì, e con una difesa, Ale, che non si è mai vista così, non si è mai scoperta così fragile, in assoluto come numero di gol, 38, anche se in realtà è la seconda del campionato, poi prende gol da 7 partite, prima per 5 non le aveva prese, insomma la difesa nella Juventus è sempre stata un ambito su cui è stata messa, no, Ale, grande attenzione. Ti sorprende un po' vederla così? No, mi sorprende perché siccome mister è sempre molto attento ai numeri, quindi lui quando negli anni passati scelse di fare questa difesa di reparto, andare a difesa della porta, tutti in linea con le diagonali, non voglio annoiare. Sì, non facciamo Coverciano. Perché lui diceva, statisticamente io in questo modo di difendere subisco meno, ma se a un certo punto del tuo percorso sono passati quasi 7-8 anni, iniziano a prenderti delle misure, iniziano le squadre a lavorare su quelle situazioni di campo dove te lasci vuoti o che ogni tanto puoi anche non arrivarci. E quando ti accorgi che questi numeri iniziano a aumentare, devi avere la bravura di provare a fare qualcos'altro o comunque di trovare una soluzione, perché molto probabilmente quest'anno è capitato che ti trovi anche dei giocatori che vengono da una conoscenza, da un percorso totalmente diverso, e molto probabilmente entrare a gamba tesa subito così puoi rischiare di incappare in partite dove subisci tanto, dove subisci dei gol anche banali in superiorità numerica 4 contro 1. Io ho visto scrivere l'agenzia 4 contro 1, che roba che a tempi nostri ci strappavano il cartellino dai giocatori. Ma io questa frase l'avevo detta un mese fa, sì, ma non mi ha staccato perché ho detto anche che prima, me, anche prima Alessandro sbaglia ogni tanto nella diagonale, sbagliavo la diagonale. L'allenatore ti mettevano 3 partite in panchina. Ricordo Alessandro Berindelli intervenire qui dopo, vado a memoria, Lazio-Juventus, con quel gol preso con errore clamoroso in copertura. Mi ricordo, se io avessi fatto una cosa così, ci cioè aveva raccontato, non mi ricordo quale tecnico tu hai nominato, mi avrebbe murato vivo dentro lo spogliatoio, scherzando, ma fino a un certo punto. Si oltrepassa a queste situazioni difensive, però poi subisci tanto. Poi se ne fai sempre uno in più degli altri, si batte le mani e va tutto bene, però bisogna stare attento perché questi blackout la Juventus rischiano, ne ha spesi. Soprattutto sono poco da Juve, cioè il motivo per il quale c'è questo dibattito è dovuto al fatto che noi abbiamo visto anche recentemente alla Juve fare delle cose, anche in negativo dal punto di vista difensivo, che solitamente non vedevamo. Però poi ripeto, Sarri è stato preso per fare un salto di qualità in Europa. Per ora si è visto questo salto di qualità? Assolutamente no, questa è la risposta. Secondo voi è pronto o no per il Lione, questa Juve? Aspetta, prendo la palla di vetro. Quello che si è visto ad oggi, questo giudichiamo, ed è chiaro che il Lione, tra l'altro, è una squadra che comunque, come tutte le squadre francesi, si è fermata, bisognerà capire se avrà il ritmo partita. Cioè, ad oggi non ci sono degli elementi, degli exit poll che facciano così sperare, però insomma tutto può succedere e noi commenteremo tutto in tempo reale, magari già da stasera ci può essere un effetto cambiamo campionato idea, vinto, perché poi c'è anche questo aspetto qui, che comunque la Juve poi ha giocato la Supercoppa italiana e l'ha persa, ha giocato la Coppa Italia e l'ha persa, forse c'è anche un po' bisogno di rompere il ghiaccio, di cioè Alessandro ha vinto tanto in carriera, sicuramente sa che le vittorie, soprattutto poi quando alzi un trofeo, ti danno un'energia, una benzina psicologica positiva, quindi è possibile che stasera vincendo il campionato poi anche ti togli anche un po' clima di, all'interno un po' di pressione, un po' di negatività ti darà un po' più di fiducia nei tuoi mezzi e poi comincia un'altra battaglia. Dal punto di vista tecnico la Juve non è la favorita della Champions, ma se la gioca con tutti, quindi io dico andiamoci piano. Detto questo, però, sarebbe sbagliato sospendere il giudizio, perché ad oggi siamo in una stagione assurda. Ad oggi ti dà l'idea di non essere pronta. Pier, aspetta perché siamo in ritardissimo sul traffico, chiedo solo flash ad Alessandro che poi saluto, se secondo lui è pronta o no per la Champions. No, io dico solo questa, il particolare che viene risalta agli occhi della gente, che questa squadra non ha il DNA della Juventus, cioè prima la Juventus vinceva le partite 1-0 e si aggrappava quel risultato con la morte, e ad oggi se vedo la partita della Juventus non noto quella cattiveria agonistica che è nel DNA e sempre nel DNA, sempre stata nelle squadre di questa società allenate da diversi allenatori, quindi questa è la prima preoccupazione. Poi ti ripeto, per me la vittoria di stasera farà dimenticare quasi tutto e porterà entusiasmo, porterà nuove motivazioni e speriamo poi che di arrivare in questa Champions in maniera positiva e che Lione paghi anche i mesi che è stato fermo. Grazie Alessandro. Grazie a voi. Grazie ad Alessandro Berindelli. Intanto, primi 5 minuti, 2 gol del Bologna contro Lecce. Palacio e Soriano, quindi si mette malissimo per i salentini. Vi racconto tutto dopo il traffico, siamo in ritardo, chiedo scuse ai colleghi. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24. 800 24 00 24. Tutti convocati. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presento. Tutti convocati. So che era l'unico modo per finire il campionato, era in questa maniera qua. E cerchiamo di finirlo, ma speriamo che da settembre riaprono, che viene gente allo stadio, perché è troppo importante. Solo per questo dico, spero finisca presto, che finiscono queste 3 giornate, che non si ripeta più, perché se mi dovessi chiedere adesso cominciare a giocare un campionato nuovo senza pubblico o non giocarlo, decido per non giocarlo, perché fa schifo così, non mi piace. Allora, questo Mihajlovic ieri, alla vigilia di Bologna-Lecce, gara che è arrivata all'ottavo minuto del primo tempo con il Bologna in vantaggio per 2-0. Il gol al secondo di Palacio, sugli sviluppi di un calcio d'angolo con conclusione ravvicinata dell'attaccante del Bologna, e il raddoppio con un tiro dal limite dell'area di rigore di Soriano al quinto minuto per il Lecce è notte fonda. Ricordiamo che il Lecce è in questo momento terz'ultimo, dunque virtualmente retrocesso, e deve recuperare 4 punti al Genoa, che ieri è stato battuto a Marassi dall'Inter, quindi questa è una grande occasione per il Lecce, che però dopo 7 minuti è sotto per 2-0. A proposito della Premier League, che stiamo seguendo nel turno finale, gare che si giocano tutte in contemporanea, per quanto riguarda la corsa per i 2 posti rimanenti in Champions League, pareggiano 0-0 Leicester e Manchester United, e sta pareggiando 0-0 anche il Chelsea con il Wolverhampton, dunque in questo momento United e Chelsea in Champions League, Leicester in Europa League con il Tottenham, che vince invece 1-0 in casa del Crystal Palace. Non ci sono buone notizie invece per il Watford del Pozzo, che è sotto 1-0 a Londra contro l'Arsenal e in questo momento è 19° in classifica e dunque virtualmente retrocesso. 800 24 00 24, raddoppio dell'Arsenal con il Watford, quindi le cose vanno ancora peggio. 24° del primo tempo. Allora, saluto Walter Novellino. Ciao Walter. Ciao, buonasera. Comunque continuiamo a raccontarvi anche la giornata di Premier League. Allora, abbiamo sentito Carlo Mihajlovic e se posso dirti per la seconda volta in un paio di settimane. Io adoro Sinisa Mihajlovic, ma dico che non sempre ha ragione, cioè ogni tanto anche lui dice delle sciocchezze, e quella che ha detto ieri è una sciocchezza, cioè che questo calcio gli fa schifo. Ha detto che è tutto falsato a livello di valori tecnici, ovviamente, e ha detto che se fosse per lui a settembre, se è così, non si riparte. Non so, Carlo, che impressione ti ha fatto? No, non si riparte, è ridicolo. Cioè, è chiaro che vogliamo tutti il pubblico negli stadi, vogliamo tutti qualcosa di normale, di più bello, di qualcosa di cui siamo abituati, però se adesso la situazione è questa, va bene così. Sottolineiamo in rosso comunque il fatto che il Bologna, che non ha più niente da chiedere a questo campionato, si stia comportando come, e questo è da notare, un po' in giro da tutte le parti, con grandissimo spirito sportivo. Sì, ma non avevo dubbi con Mihajlovic in panchina. Walter, che ti sembra di questa seconda parte di campionato? Ma lui ha fatto una provocazione, no? È normale che dopo il Covid le squadre atleticamente, fisicamente non era a posto, però ultimamente i tempi ce l'hanno, la corsa ce l'ha, è ovvio che lui parlava per così, perché veniva anche da un periodo di non risultati, no? Tra virgolette, no? A livello fisico, a livello di tempi di giocate. Secondo me è stata una provocazione, insomma, credo che è solo questo, ha dovuto su questo. Poi il campionato oggi si decide a Juventus, sperando che riesca a vincere, che riesca a dimostrare il tutto solo. È difficile, no? Come giustamente ha detto Sacchi, no? Lui era abituato che tatticamente la squadra sua è perfetta, invece adesso lui deve gestire i giocatori, come normale che siano, i giocatori che si hanno. È costretto ad adattarsi lui, ha detto, altrimenti devo far fare un mercato per allenare solo me stesso, che sarebbe un paradosso, esatto, ovviamente. Esatto. Io però devo dirvi, Pier, che non sono nemmeno d'accordo sul fatto che questa seconda parte di stagione, quindi diciamo quella post coronavirus, non abbia valori tecnici. Cioè, alla fine, secondo me, pur nelle difficoltà, più o meno ha confermato quello che le squadre stavano facendo prima, a parte la Lazio che è crollata. A parte la Lazio che è crollata, la Juventus era incostante anche prima. Il Milan che è risorto, no? Qualche cosa di beh, ragazzi, il Milan, però Pier, il Milan, io sono andato a rifarmi la lista. Il Milan, dopo quell'Atalanta-Milan di fine dicembre, perso 5-0, ha fatto 39 punti in 18 partite, diciamo in un girone. Cioè non ha fatto tutto solo dopo la sosta, era già una squadra che si era messa a correre. L'Atalanta aveva vinto le ultime 4, più tutte quelle di Champions prima del Covid, e semplicemente ha continuato a vincere. L'Inter aveva buttato via punti a gennaio e febbraio, è andato avanti a buttare via punti dopo. Il Napoli viaggiava più o meno alla stessa velocità nelle ultime 10 prima della sosta. È la Lazio, è solo la Lazio. Però dire che non ci sono contenuti tecnici, secondo me è un errore, questo volevo dire. Anche senza lockdown, pandemia, senza tutto quello che abbiamo vissuto quest'anno, ci sono in qualsiasi stagione dei momenti. Cioè, per dirti, la Roma aveva finito benissimo il 2019 e ha cominciato malissimo il 2020. Napoli fino a un certo punto ha avuto problemi, poi ha cominciato a correre. La Lazio in un certo momento e poi è decollata. Cioè, voglio dire, è assolutamente nella norma delle cose. È fisiologico che ci siano dei momenti positivi o negativi. No, anch'io sono dell'idea che i valori tecnici ci siano. È chiaro che è meno bello. Speriamo di portare la gente allo stadio prima possibile. Sentito Spadafora l'altro giorno. Ma non è che se ne metti 10.000 poi improvvisamente ti dimentichi che tutto il resto è vuoto, per carità. No, meglio 10.000 di nessuno, ma noi rassegniamoci. Sarà una tristezza comunque. No, però tecnicamente io sto commentando anche partite interessanti. Ieri, per esempio, Napoli Sassuolo è stata una bella partita, che ha detto cose da una parte e dall'altra. Quindi, cioè, secondo me. Più del Sassuolo, devo dirti, però. Più del Sassuolo. Ti è piaciuto più il Sassuolo ieri? A me sì, molto, mi piace, perché fa un calcio che a me assomiglia un po' al mio, no? Nel 4-2-3-1 e nel 4-4-2. Mi sembra che gli esterni... Poi sono 9 tiri in porta, uno per il Napoli. Sommessamente mi permetto di dirlo, no? Nel senso, ieri secondo me è stata una partita che ha vissuto, aprendo una parentesi di un minuto, di strappi. Una prima mezz'ora in cui il Napoli poteva andare sul 2-0, poi c'è stato, diciamo, dal 30esimo al 70esimo tanto Sassuolo, e poi nel finale senza VAR stavamo parlando di un 3-1 per il Sassuolo con mille polemiche. Ecco, no, infatti, scusa, visto che abbiamo aperto una piccola cosa e visto che parliamo continuamente di VAR, ecco, insomma, ieri abbiamo avuto una dimostrazione del fatto che il VAR lo possiamo ovviamente discutere, Ma qui quello sul quale quello sul quale noi discutiamo è la discrezionalità arbitrale, che fa parte del calcio, e lì dobbiamo metterci d'accordo se vogliamo più o meno discrezionalità. Però c'è sempre un fattore umano nelle trattenute, nelle spinte, negli sponsor. Poi quello che è oggettivo, il VAR al VAR. Ieri sul fuorigioco il VAR ha funzionato, alla perfezione. Fatemi chiedo a Carlo e a Walter, perché ieri in tanti hanno scritto che Napoli-Sassuolo era un po' la prova finale verso il Barcellona, anche perché in tanti continuano ad associare il gioco di De Zerbi al gioco del Barcellona per ricerca della fase offensiva, per palleggio eccetera. Se così fosse, secondo voi il Napoli l'ha superato o no questo esame? Beh, sulla buona strada, meglio rispetto alle ultime uscite. È normale come il Napoli, anche se Gattuso non lo ammetterà mai, da qualche tempo abbia in testa quella partita lì. Quindi certamente il Napoli, la Roma, adesso anche l'Inter e probabilmente da domani la Juventus potranno usare le partite che restano come allenamento agonistico verso quell'obiettivo lì. Napoli mi sembra in crescita dopo un periodo di bassa. Walter? Sì, a livello di crescita c'è, a livello singolo ci sono, a livello di uno contro uno ci sono. È chiaro che in questo campionato abbiamo visto, dopo il Covid, abbiamo visto la mente un po' più libera dei calciatori. Io sono convinto che la sta preparando nei migliori modi, però al di là di questo incontrerà una squadra fortissima, una squadra che anche lì nel palleggio si può mettere in difficoltà, anche se devo dirti che il Napoli in questo periodo palleggia meno rispetto all'inizio, perché a me piace molto il possesso di palla che parte da dietro e crea lo spazio per gli attaccanti per trovare gli spazi. Però troverà ovvio una squadra che nel palleggio è la sua forza e la qualità dell'uno contro uno. Il Napoli può, secondo me ce la può fare. Sì, anche se poi, sempre parlando di ieri, la partita col Sassuolo come di una sorta di prova generale. Se mandi il Sassuolo in porta 4 volte, per carità, in fuorigioco, ma in almeno 3 occasioni si è trattato veramente di pochi centimetri, ti stai assumendo dei rischi. E assumersi rischi, ad esempio, con Messi e Suarez, significa veramente camminare su un filo molto, molto, molto sottile. E quindi magari un po' più di attenzione andrà fatta. Allora, ci fermiamo. Grazie a Walter Novellino. Grazie a voi. Ciao Walter, ciao. Grazie. Aggiornamento su Bologna-Lecce. 17esimo minuto del primo tempo. Il Bologna continua a condurre 2-0, i gol di Palacio e Soriano. Dalla Premier League continua a essere in pareggio Leicester, Manchester United, e continua a pareggiare sempre anche il Chelsea con il Wolverhampton. Tutte e due le partite sono sullo 0-0. Quindi in questo momento è Leicester che resta fuori dalla Champions League, è sotto 2-0 a Londra contro l'Arsenal, il Watford che dunque in questo momento sarebbe retrocesso. Ci fermiamo un minuto, torniamo e parliamo dell'Inter. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Tutti convocati. Penso che ci sono anche delle annate dove semini poco e raccogli tanto, e delle annate invece dove comunque semini tanto durante le partite e raccogli di meno. Io penso che questo sia accaduto comunque all'Inter quest'anno. Un'annata che ancora non è conclusa, per cui è presto fare il consuntivo definitivo, ma quello che abbiamo potuto vedere è una visione di insieme che ci porta a dire siamo migliorati e quindi continuiamo in questo processo di crescita. Ci sono dei numeri che parlano chiaro, ci sono dei numeri che confortano. Penso che questi ragazzi stiano facendo delle cose buonissime. Sicuramente si può e si deve migliorare, però al tempo stesso dico che devo fare i complimenti a loro, ecco, perché stanno facendo bene, sono ragazzi seri che si impegnano, non stanno mollando. Dispiace sicuramente per alcune partite, no? Come anche l'ultima con la Fiorentina stessa. In intanto si complica ulteriormente la situazione del Watford, che ha incassato il terzo gol ancora da Aubameyang quando è da poco passata la mezz'ora. Dunque Arsenal 3, Watford 0. Watford che è a questo punto 19° in classifica, ma sta compromettendo non solo a livello di punti ma anche a livello di differenza reti, che in Premier League è la discriminante per decidere eventualmente chi sta davanti in classifica alla propria situazione. Tutto fermo invece nella corsa Champions League. Saluto Ciccio Colonnese, ciao Ciccio. Buon pomeriggio a voi. Allora ragazzi, la grande sorpresa che io continuo a far fatica a spiegarmi è la differenza di comunicazione di Antonio Conte da una settimana all'altra, perché negli ultimi 4-5 giorni Antonio Conte ha cominciato a guardare il bicchiere mezzo pieno, a lodare il comportamento dei suoi giocatori, a dire che è stata una stagione estremamente positiva, che insomma va tutto bene anche se la strada per tornare a vincere è lunga, quando fino a una settimana fa era lui per primo a parlare di pacchetto preconfezionato di tutto quello, insomma, che poi ha aperto anche un ampio dibattito che addirittura in alcuni momenti ha finito per coinvolgere anche il suo futuro. Io non so che idea ti sei fatto tu, Ciccio. No, ho fatto l'idea che abbiamo fatto tutti, insomma, è evidente che insomma qualcosa è successo in passato, o quando l'Inter, insomma, una quindicina di giorni fa ci sono state, insomma, abbiamo letto tutti delle dichiarazioni difficili, insomma, che dimostravano un certo nervosismo in Antonio. Quindi ma adesso è un Conte molto più sereno, forse insomma si sono parlati, io non lo so, non ho idea, però insomma io dico che quello che dice Conte è vero, ma lo era anche prima, nel senso che insomma l'Inter insomma, anche prima era questa squadra forte, questa squadra che tutti sapevamo che insomma potesse insomma fare un ottimo campionato. Nessuno mai di noi, penso che neanche la società, pensava mai che l'Inter potesse essere una squadra insomma molto lontana dalle prime, insomma, quindi la sensazione è che adesso l'Inter o lo stesso Conte abbia trovato un po' di serenità con l'ambiente, con se stesso, con tutta anche diciamo la società, perché quello che si vedeva 15 giorni fa insomma, faceva capire come se all'interno ci fossero delle situazioni non chiare, insomma noi non sappiamo nulla, ma quello che ci, insomma, si veniva fuori dalle sue dichiarazioni sembrava questo. E, insomma, invece insomma, l'Inter è una squadra che sta facendo un grande campionato, è vero, è una squadra solida, una squadra che anche i primi 6 mesi. Quindi bicchiere mezzo pieno anche per te. Sì, per me sì. Però al difetto di non averci cioè secondo me il problema, ok, arriva seconda, vediamo con quanti punti di distacco dalla Juventus, tutto quello che volete, però l'Inter secondo me ha commesso il peccato mortale di non averci creduto fino in fondo, perché Conte probabilmente adesso difende la squadra, ma proprio perché si espone a facili critiche la squadra. A me non è piaciuto sinceramente l'atteggiamento, quasi il linguaggio del corpo che l'Inter ha avuto a Roma e con la Fiorentina, perché è chiaro che insomma parlavamo di possibilità di remontata legata a eventuali disgrazie della Juventus. L'Inter non ha dato l'impressione della squadra feroce in quelle Ciccio. Occasioni sinceramente. Ciccio. Ma forse in più che Roma e Fiorentina io direi con Sassuolo e Bologna, perché con Roma e Fiorentina onestamente insomma l'Inter con la Fiorentina ha avuto tante occasioni e le ha sbagliate, però insomma la stagione decisiva secondo me era quella, cioè per agganciare la Juve, per mettere pressione alla Juve, erano quelle le partite che l'Inter avrebbe dovuto vincere, perché era in vantaggio, perché era fino a pochi secondi con il Sassuolo e anche col Bologna era in vantaggio di un uomo, quindi secondo me lì è stato lo spartiacque per veramente non avere rimpianti per questa stagione, quelle due, perché ripeto con la Roma ha giocato un'ottima gara, bisogna essere onesti, e con la Fiorentina l'Inter ha sbagliato tanti gol, quindi secondo me sono state quelle le due partite dove l'Inter ha avuto un po' di rimpianti e dove le stesse diciamo esternazioni di Conte sono state un po' di nervosismo non normali. Sì, anche se non è normale neanche come si è buttata via in quelle due partite, no, Ciccio, infatti, hai perfettamente ragione. Io credo che Sassuolo e Bologna siano i due rimpianti principali, sinceramente. Ballano 5 punti, eh? e se vuoi anche Verona, dove per carità si può pareggiare, si può anche perdere, la Juve ci ha perso, tanto per fare un esempio, l'Atalanta ci ha pareggiato, però è vero pure che eri 2-1 all'88esimo. No, io penso che il bilancio della stagione sia positivo, nel senso che comunque sia, guardando anche dal punto di vista numerico, i punti, insomma siamo sopra i livelli del triplete, l'Inter è cresciuta tanto rispetto all'anno scorso, secondo me ha seminato, per usare la metafora di Conte, bene. Io sono convinto che sia una delle prossime cose grandi del calcio italiano ed europeo. È chiaro che da uno come Conte, dalla sua cattiveria agonistica, dalla sua attenzione al dettaglio, in un campionato come questo, con la Juve che lo vincerà molto probabilmente, ma... La Juve ha 9 punti meno dell'anno scorso, 9 punti meno, l'Inter 10 in più. È chiaro che, cioè, paradossalmente, le difficoltà della Juve finiscono quasi per riflettersi sulla... sull'Inter, cioè se la Juve avesse 7-8 punti in più probabilmente ci sarebbe meno recriminazione, quindi questo è l'elemento secondo me fondamentale, però il bilancio è un bilancio che secondo me ad oggi è complessivamente positivo, di una campagna acquisti che è stata importante, di un allenatore importante, di una squadra che sta crescendo e che ha iniziato un percorso di crescita assolutamente significativo. Certo, se pensi a quello che poteva essere Bologna, e non è, perché in questo momento certo. L'Inter potrebbe essere lì lì con la Juve, poi adesso no, c'è anche un calendario in mezzo, perché adesso l'Inter al Napoli, poi va a Bergamo con l'Atalanta, quindi sarebbe stato comunque tutto da dimostrare che bastava vincere quelle due partite per vincere lo scudetto, però chiaramente avrebbe dato un senso diverso a questo finale di stagione. A proposito del quale, intanto il Watford ha accorciato le distanze sotto 3-1 contro l'Arsenal, il gol su calcio di rigore, siamo nelle ultime battute del primo tempo. A proposito del finale di stagione dell'Inter, e poi saluto Ciccio Colonnese, ti chiedo che Inter ti aspetti con Napoli-Atalanta, perché è vero che arrivare secondi è importante, ma è altrettanto vero che la settimana dopo c'è l'Europa League da preparare con il Getafe, con tutto quello che poi arriverà in caso di passaggio del turno in Germania con la Final Eight. Ma io penso che l'Inter ha una rosa all'altezza, ha recuperato anche Sensi, insomma l'Inter sta recuperando tutti, manca solo di prima, insomma la squadra, la rosa è importante, quindi può benissimo fronteggiare anche queste, diciamo, questo fatto della partita del Getafe. L'Inter deve finire bene, insomma non può pensare che adesso queste due partite perdere le posizioni e arrivare quarta, l'Inter deve arrivare seconda per finire bene la stagione, per dimostrare a tutti quanti, insomma, che non ci sono rimpianti, ha fatto il suo campionato, è arrivato fino in fondo e basta. Insomma, non può pensare con Napoli e Inter di perdere o di perdere posizione. Questo non penso che io giocato a calcio tanti anni e penso che non, nessuno può pensare che da secondo arrivi quarto, perché cambiano le valutazioni. Quindi conta più portarsi dietro l'entusiasmo di un secondo posto piuttosto 15, che aver risparmiato un po' di energia, per intenderci. 15 secondi su Lukaku, visto anche il record. Bravino, bravino. Sono del fan club di Lukaku. Sì. Ma no, al di là delle battute, insomma, io credo che in questa stagione abbia fatto delle cose importantissime. Credo che sia un attaccante che non deve essere giudicato solo per i gol, e dico che già il dato dei gol è un dato straordinario. Quindi io credo che ci siano... Ma in lui, ma anche per esempio negli esterni che sono stati presi, nelle rotazioni tra gli esterni, in alcuni giocatori che sono rifioriti, cioè il lavoro di Conte si vede. È mancata secondo me in certi momenti un po' di, se vuoi, flessibilità dal punto di vista tattico, forse, una certa lentezza nell'inserire Eriksen, al netto delle responsabilità del giocatore, che sicuramente ci sono, però insomma da un grande allenatore come Conte mi aspettavo qualcosa in più e anche di più veloce nel farlo diventare un punto di forza di questa squadra. Quindi se c'è qualche rimpianto anche lui ce l'ha, come dicevamo l'altro giorno, cioè anche lui ha fatto stagioni migliori di questa, però la strada è tracciata e credo che Lukaku sia da questo punto di vista un giocatore, ecco, oggi paradossalmente al netto del Covid, che chiaramente ha abbassato le quotazioni, quella quotazione sì, che vale più dei 60-70 milioni pagati, oggi li vale di più, poi magari adesso il Covid abbassa i prezzi a tutti, però quell'investimento lì tutto da verificare. Allora, abbiamo il traffico, saluto Ciccio Colonnese, ciao, grazie, alla prossima. Perfetto, ciao ragazzi, ciao a tutti. Intanto si è portato in vantaggio il Chelsea contro il Wolverhampton, dunque 1-0, siamo negli istanti di recupero del primo tempo, dunque Chelsea che in questo momento rende più forte il suo terzo posto e la sua qualificazione alla Champions League. Ci fermiamo, traffico, torniamo subito, parliamo di Messi. I love this game. tutti convocati. Tutti convocati. Lascia aperto uno spiraglio, c'è una possibilità? Cioè, autorizziamo i tifosi dell'Inter a sognare Messi in nerazzurro? No, su Messi diciamo che parliamo di fantacalcio, onestamente assolutamente non è un obiettivo nostro, ma credo che in questo momento Messi sia concentrato a proseguire la sua attività calcistica, la sua vita con Barcellona, questo senza ombra di dubbi. È stato bello finché è durato, anche se è durato molto poco, questa cosa della suggestione di Messi all'Inter. Sandro Sabatini, ciao Sandro. Ciao, buona domenica a tutti. Ciao, ciao. Tra l'altro ieri c'è stato questo teatrino meraviglioso per cui all'inizio Marotta aveva capito che si parlava di Sanchez, ha detto certo, entusiasmo, andare avanti, trattativa, e i colleghi di Sky sono impazziti per due secondi, salvo poi accorgersi che era soltanto una suggestione. Sandro, dai, sono le cose meravigliose che succedono in diretta, no? Ah, sì, sì, no, le cose in diretta, il bello della diretta, no? Si diceva una volta, basta un attimo di una, così di un pensiero viene scambiato per un attimo il nome, ma anche perché con gli auricolari non è che si sente tutto perfettamente, no, capito? Certo. Quindi così. Però al di là del bello della diretta, penso che sia, non lo so, perché poi fino a un certo punto è bello lasciar sognare i tifosi quando poi si tratta in realtà soltanto di un'illusione. Ecco, su questo c'è magari da interrogarsi, è giusto in qualche modo lasciarli sognare oppure è giusto spegnere immediatamente il sogno? Io non lo so. No, ma io sono per la seconda strada, Carlo, non so cosa, pensi tu. Sì. Sì, anch'io sono per la seconda strada, però insomma, mi sembra evidente che Filippo Maria Ricci della Spagna ce l'ha detto un milione di volte, al di là degli scazzi che ci sono tra Messi, Bartomeu, la dirigenza del Barcellona e tutta quella situazione che è molto, molto ingarbugliata e molto incasinata, però non credo proprio che Messi abbia intenzione, avrà intenzione di cambiare presidente, ma rimanendo nello stesso posto, io credo. Sì, ricordo che quella famosa postilla per cui si poteva liberare gratis anche in questa stagione è scaduta il 31 maggio, quindi sarebbe stato veramente un controsenso, no? Non esercitare la clausola e poi mandare l'Inter a trattativa con il Barcellona, che mai nella vita vorrebbe far partire Messi. Però, lasciami dire che ha fatto anche molto sorridere tra le varie motivazioni che abbiamo letto, no? Che poi scrive un giornale, la riportano tutti i siti e i social. Dice Messi è attratto da Milano anche perché impazzisce per la pasta al pomodoro e la cotoletta. Ora mi sembra un po' deboli però per cambiare squadra come motivazioni, ecco. Pier, no, però insomma è stato bello anche illudersi per qualche ora, per qualche giorno. È stato bello illudersi, mai come in questo caso la scelta veramente è legata al giocatore, nel senso che come nel caso di Cristiano Ronaldo alla Juve, cioè a un certo punto Cristiano Ronaldo aveva voglia di altri stimoli, cioè per me la notizia o comunque la suggestione giornalistica è che questa cosa qui in qualche misura, non dico che sia stata verosimile proprio perché l'enormità di Messi secondo me non ha reso neanche verosimile questa possibilità, ma insomma non è un'utopia poterlo immaginare, cosa che secondo me 2 o 3 anni fa era invece impensabile, un po' perché il calcio italiano faticosamente ha conquistato una dimensione migliore rispetto a qualche tempo fa, cioè siamo comunque, secondo me abbiamo superato il punto più basso della crisi del nostro calcio. C'è stato ovviamente l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve che ha aumentato complessivamente il prestigio e diciamo l'allure del nostro calcio, e poi c'è secondo me un progetto di crescita vero dell'Inter, per cui poi la cosa non si farà, secondo me non c'è mai stata la possibilità, era solo una suggestione, però già il fatto che se ne sia parlato non è una follia inventata dai giornalisti, era un'ipotesi altamente improbabile, ma meno improbabile rispetto a qualche tempo fa. Facciamo un po' di fantacalcio, ragazzi, come dice Marotta. Sì. Fra un anno che il contratto scade veramente a Messi, secondo voi per l'Inter ha un senso anche solo immaginare di provare a imbastire questa cosa a 34 anni, comunque con dei costi alti, o veramente adesso, al di là di tutto, è una cosa che non ha nemmeno un senso compiuto dal punto di vista tecnico? Carlo, parlo da te. No, ce l'avrebbe Giovanni, ce l'avrebbe, altro che, insomma, dai, da mille punti di vista, come stesso discorso di Ronaldo, calcistico e non solo, Avrebbe un senso certamente, però torno a ripetere, io cioè credo renderebbe che, l'Inter più forte. Adesso io lo so che sembra un po' brutale e banale questa domanda, fra un anno Messi renderebbe l'Inter più forte, sarebbe un progetto di 3 anni, cioè è questa la provocazione, la domanda, visto che dobbiamo fare il fantacalcio lo facciamo fino in fondo. Secondo me sì, secondo me ancora sì. Tecnicamente sì, cioè Ibrahimovic a 39 anni ha reso il Milan più forte, Messi a 34 renderebbe l'Inter e qualsiasi altra squadra più forte. Se poi vogliamo fare extra fantacalcio, una notifica dal punto di vista economico e finanziario, io insomma credo che l'assunto per cui Messi si ripaga con le magliette è abbastanza controverso e messo in crisi anche dal Ronaldo si ripaga con le magliette. Certi sì, ma nessuno si ripaga con le magliette, lo diciamo chiaramente così. Non è molto diversa dalla situazione di Ronaldo. Io non so dire se Ronaldo abbia reso la Juve più forte di prima, magari fra un mese dopo la finale di Champions sapremo, alla fine di questa stagione sapremo, potremo fare un bilancio un pochino più preciso. Sicuramente ha reso la Juve più centrale, più glamour, e sicuramente ha fatto sognare i tifosi, sicuramente l'ha resa più centrale nel calcio internazionale e ha fatto anche un grande contributo in campo. Io credo che Messi sarebbe grosso modo la stessa cosa, anche perché questi sono due giocatori che non sono solo i più forti al mondo da sempre, ormai da 15 anni, ma sono anche due giocatori integri. Quindi tu veramente hai, al netto dell'anagrafe, che chiaramente non è più quella di 5-6 anni fa, nel caso di Messi come nel caso di Ronaldo, hai dei giocatori che comunque stanno bene fisicamente, non hanno mai avuto grandissimi problemi e quindi insomma sono ancora in grado di dare tanto, da tanto Ibrahimovic che si sta solo riscaldando, come ci ha raccontato l'altro giorno, poi ne parliamo dopo le 18 del riscaldamento di Ibrahimovic. Quindi la risposta è sì, magari c'è casca, si dice a Roma, no? Un giocatore come Messi, quindi diciamo che magari fra un anno oggi possiamo anche darci appuntamento per essere qui a parlare della trattativa per portare Messi all'Inter. Invece fatemi, se voglio far ascoltare a Sandro Sabatini questa cosa qui per competenza territoriale, da Toscano a Toscano. Buongiorno, vi presento Biancaneve, la mia paperina, vero? Gli piacciono i biscotti, fa colazione a biscotti. Aia! È bellissima. L'hai riconosciuto, no, Sandro? Sì, no, io l'ho riconosciuto, capito, così in versione agricola, bucolica. È questo video che ha pubblicato con la sua papera Biancaneve, gli dà da mangiare i biscotti, gli dà anche un paio di beccate, mica da ridere, però la domanda che ti faccio, da Toscano a Toscano, non è ora che torni in panchina, Spalletti? Assolutamente cioè, bello, sì. Con la papera Biancaneve, però... Assolutamente sì, io credo che Spalletti sia da immediato ritorno in panchina, credo che comunque da Toscano a Toscano, magari con tutto il rispetto per Iachini e sperando che Iachini continui a completare una stagione e comunque positiva sua alla guida della Fiorentina, io credo che una collocazione plausibile per Spalletti sia proprio quella della Fiorentina. In ogni caso, al di là di questo video su cui ci sarebbe anche da sorridere, io credo che Spalletti manchi al calcio italiano per quello che ha fatto nella Roma e tutto sommato anche all'Inter. Grazie Sandro. Ciao, grazie a voi. Ciao a Sandro Sabatini. Allora, saluto anche per Luigi Pardo. Ciao Pier. In 10 secondi voglio dirti che Spalletti sarebbe bellissima la Fiorentina, anche molto romantico. E adesso c'era Sandro Sabatini. Mi viene da pensare che fra i vincitori della stagione, secondo me c'è anche Allegri. Perché ad oggi, poi stasera Sarri vince lo scudetto, quello che volete, però secondo me questa stagione qui, il paradosso è che Allegri, stando fermo, sempre per parlare di Toscani, ha ulteriormente migliorato la sua immagine, la sua caratura, perché si è capito che allenatore è. Ci sono tanti che hanno riletto il suo lavoro degli ultimi anni. Grazie Pier, ciao, a domani. Ciao. Allora Carlo, ti do gli aggiornamenti prima del GR. 2-0 Bologna su Lecce, siamo al 42esimo del primo tempo, siamo fermi ai gol di Palacio e Soriano al secondo e al quinto minuto. In Premier League siamo nell'intervallo, il Watford perde 3-1 a Londra contro l'Arsenal, dunque in questo momento è virtualmente retrocesso. Invece il Chelsea conduce 2-0 sul Wolverhampton e dunque sarebbe terzo a quota 66 punti, 0-0 tra Leicester e Manchester United. Il Manchester United a questo punto sta mantenendo il punto di vantaggio sul Leicester e dunque va in Champions League. Ci fermiamo dopo il GR del 18, finiamo di raccontarvi tutto. Siete tutti convocati anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. convocati. Allora attenzione a Mbappé per Renna, entra in maniera ruvida, prende il pallone, poi prende anche il piede di Mbappé, arriva il cartellino giallo, attenzione perché si scatena una rissa furibonda, una rissa furibonda, una rissa... Rivediamo, è entrato beh, male. La palla non la tocca neanche. Qui è entrato malissimo, lui non può entrare così. Però l'arbitro comunque l'ha redarguito, l'ha ammonito e a quel punto lì i giocatori poi devono un minimo darsi una calmata. Fa impressione intanto questo sì. Replay, una torsione innaturale da parte della caviglia di Mbappé. Molto dolorante l'attaccante del Paris Saint-Germain e attenzione perché questa può essere una notizia da non sottovalutare anche per i tifosi dell'Atalanta. Allora, questo è un racconto l'altra sera dell'infortunio di Kylian Mbappé nella finale di Coppa di Francia contro il Saint-Étienne. La diagnosi l'abbiamo letta dopo qualche ora, questa grave distorsione alla caviglia destra, la prognosi cercheremo di capire qual è, ma sicuramente coinvolge anche le possibilità di giocare la gara di quarto di finale della Champions League contro l'Atalanta in programma a Lisbona il prossimo 12 agosto, e di questo adesso parliamo. Intanto sono a riposo Bologna e Lecce sul 2-1 perché negli ultimi istanti del primo tempo ha segnato Mancoso, dunque Palacio Soriano nei primi 5 minuti e poi Mancoso per il Lecce a riaprire la partita. Saluto insieme a Carlo Genta Alessandro Grandesso che è il corrispondente da Parigi della Gazzetta dello Sport. Alessandro, ciao, buon pomeriggio. Ciao. Buon pomeriggio a tutti. Allora, dobbiamo considerare fuori Mbappé per la partita con l'Atalanta? Beh, diciamo che servirebbe un vero miracolo come mai visto nel calcio più recente. La situazione è abbastanza critica. Il comunicato stesso del Paris Saint-Germain ieri ha lasciato poche speranze, dando parole di una grave lesione, insomma, nel linguaggio anche che usa abitualmente il Paris Saint-Germain, insomma, è un segnale molto forte. Lo si era capito abbastanza rapidamente venerdì sera dopo la partita che i segnali erano negativi. Si sperava che magari gli esiti, gli esami potessero dare qualche speranza, insomma, però insomma servirebbe veramente un miracolo, come tra l'altro anche l'equipe stamattina ha messo in prima pagina. Sì, proprio a tutta pagina, Carlo, no, per una brutta notizia sì. In assoluto, per chi ama il calcio può essere, no, Carlo, certo. Una discreta notizia per l'Atalanta. Ma certo, ovviamente non avere contro uno dei più forti giocatori del mondo in modo un po' cinico sarebbe una notizia per l'Atalanta positiva, per lo spettacolo che vedremo no, ma questa è abbastanza retorica, insomma non possiamo dire che se Mbappé salta la sfida con l'Atalanta siamo dispiaciuti. Piuttosto io sono molto curioso di vedere le due francesi, il Paris Saint-Germain e il Lione, perché continuo a pensare che stare 5 mesi senza giocare una partita sia qualcosa di determinante, come minimo di determinante. Alessandro? Beh, sì, determinante nel senso negativo, immagino. Perché... Ah sì, non c'è dubbio. Sì, perché è inconcepibile, dai, cioè non puoi arrivare in condizione mentale agonistica. C'era stato un momento in cui effettivamente si pensava che magari il dislivello, diciamo, di ritmo di partita poteva essere compensato da una certa freschezza. Il problema è che sappiamo bene che uno stop prolungato va a compromettere anche la freschezza non solo fisica ma anche mentale della competizione, sapendo in più che il Paris Saint-Germain non ha giocato amichevoli veramente impegnative, insomma ha vinto 9-0, 7-0, 4-0 con squadre già praticamente in vacanza. Era molto difficile poter pensare che questa squadra potesse anche, diciamo, presentare un volto interessante. Lo si è visto in più, la finale di Coppa di Francia era proprio il momento principale per capirlo, e si è vista una squadra che magari ha avuto per sprazzi qualche momento di lucidità fisica e anche di gioco, guarda caso quando Mbappé era in campo, e poi ha subito totalmente il gioco di un Saint-Étienne che ha mezzi molto limitati ma non aveva nulla da perdere, questo è un altro punto in comune forse con l'Atalanta, e ha messo dell'intensità con energie che magari mentali che il Paris Saint-Germain in questo momento non ha. Poi è chiaro, come dicevi tu, si andrà a vedere la partita con il Lione il venerdì prossimo, un'altra finale, un'altra partita secca, e soprattutto l'ultimo vero test, perché poi ci sarà forse un amichevole del Paris Saint-Germain prima dell'impegno con l'Atalanta. Allora lì bisognerà capire se effettivamente questa squadra, quella del Paris Saint-Germain in particolare, avrà la capacità di scoprire in sé delle risorse che non si sono viste finora. A proposito del Lione, che Lione si deve aspettare la Juve? Perché quello è proprio un mistero. Allora, il Lione, contrariamente al Paris Saint-Germain, secondo me ha preparato meglio, si è avvicinato meglio alla partita. Anche il Lione ha già fatto un percorso importante, viste anche la situazione generale. Arriva quindi con l'idea di giocarsela apertamente, ma il fatto di essere arrivato a questo punto della competizione di Champions è già un traguardo per questa squadra, che insomma ha fatto anche male in campionato. Io ho visto le partite finora disputate e devo dire che non ha dato gli stessi segnali del Paris Saint-Germain di venerdì, cioè c'è una squadra che ha più forse spirito di gruppo, spirito di squadra, spirito di sacrificio e forse anche qualche idea di gioco in più. Quello che ha colpito molto la platea di giornalisti, colleghi francesi in particolare, venerdì, è stata forse questa mancanza di uno straccio di gioco che potesse permettere al Paris Saint-Germain di gestire con in più per un'ora un giocatore in più del Saint-Étienne, un avversario per tutta la portata. Quindi non è una buona notizia, no, Carlo, per la Juventus? No, non è una buona notizia per la Juventus, però in tutta franchezza, cioè, se la Juventus dovesse andare fuori con il Lione, sarebbe una cosa talmente grande e clamorosa che ci porterebbe a rivedere un sacco di cose a partire dalla posizione di Sarri, Giovanni. Sì, no, io l'ho detto venerdì e lo ripeto oggi, e chiedo anche ad Alessandro cosa ne pensa. Se si vuole fare una cortesia alla Juventus in questi 12 giorni che porteranno fino alla partita del 7 agosto con il Lione, bisogna smetterla di dire che è una cosa scontata e che bisogna già pensare al Manchester City dopo. Bisogna smetterla di dirlo, perché lo si è visto già all'andata cosa ha portato. Non è così. All'andata già con un Lione che in campionato arrancava abbastanza, insomma era una fase di stallo, se non altro, si dava per scontato un risultato visti i campioni della Juventus, e invece è arrivata la sconfitta, e è arrivata la sconfitta tra l'altro con uno dei giocatori più prosaici della rosa di Rudy Garcia, che poi nel frattempo era stato comprato e lasciato in prestito all'Hertha Berlino ed è tornato a Berlino. Nel frattempo però questa squadra ha continuato a lavorare. Lione è entrato in ritiro molto presto, i primi di giugno, e quindi ha avuto un percorso secondo me finalizzato a preparare questa partita. Magari mancherà di ritmo fisico, ma secondo me non mancherà dello stesso ritmo mentale o comunque di quelle energie mentali che invece si è visto nel Paris Saint-Germain. E attenzione, perché l'1-0 è un risultato che non garantisce una qualificazione, ma è allo stesso tempo un risultato pericoloso per chi l'ha subito, perché ti espone poi in casa, in caso di gol subito, a dover davvero a quel punto scalare una montagna, perché in questo momento fisico, di condizione e tutto quello che insomma abbiamo imparato a conoscere di questo calcio post-Covid, doversi costringere eventualmente da parte della Juve a segnare 3 gol a Lione per andare avanti, vorrebbe dire costringersi a scalare una montagna, anche se poi in campo le differenze ci sono e sono innegabili tra Juventus e Lione. Grazie ad Alessandro Grandesso. Ciao Ale, grazie, alla prossima. Grazie a voi. Ciao. Allora, lasciamo Parigi, vi diamo gli aggiornamenti, detto che Bologna e Lecce sono nell'intervallo con il Bologna avanti 2-1, Palacio, Soriano e Mancosu i marcatori dei 3 gol del primo tempo. Siamo intorno al 12° minuto della ripresa sui campi della Premier League. Per quanto riguarda la corsa Champions League, vince sempre 2-0 il Chelsea contro il Wolverhampton, dunque Chelsea che in questo momento è terzo a quota 66 punti, quarto il Manchester United a quota 64, uno in più dell'Leicester. Le due squadre stanno pareggiando 0-0 nel confronto diretto che si gioca in casa dell'Leicester e che è arrivato al 56° minuto. Per la corsa a salvezza va male il Watford, che è sotto 3-1 in casa dell'Arsenal e in questo momento è virtualmente retrocesso, così come il Bournemouth, che sta vincendo 2-1 a Liverpool contro l'Everton, ma tutte e due andrebbero giù perché l'Aston Villa è fermo sullo 0-0 nella sua gara e dunque farebbe quel punticino necessario per salvarsi. Ci fermiamo, c'è il traffico, poi parliamo del Milan e di Ibrahimovic. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 0024 800 24 0024. Tutti convocati. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Tutti convocati. That I'm done. That my career will soon be over. You don't know me. All my life I had to fight. No one believed in me. So I had to believe in myself. Some people wanted to break me. But they only made me stronger. Others wanted to exploit me. They only made me smarter. And now you think I'm done? To all of you, I only have one thing to say. I'm not like you, because I'm not you. I am Zlatan Ibrahimovic, and I am just warming up. Allora, questo lungo messaggio che ha pubblicato ieri Zlatan Ibrahimovic per dire che si sta soltanto riscaldando, perché lui è Ibra e gli altri non sono come lui. Saluto Carlo Pellegatti, ciao Carlo. Sì, buonasera. Ciao, ciao Carlo. Oh, chiedo a tutti e due Carlo, Carlo Pellegatti e Carlo Genta, che cosa vuol dire mi sto soltanto riscaldando, detto da Ibrahimovic? Beh, è una frase che aveva già usato... Vai, vai Carlo, vai Carlo Pellegatti. Vai, Carlo. È una frase che aveva già usato qualche mese fa dopo una partita dove poi c'era stata l'intervista, aveva usata Raiola, si sta ancora scaldando, si vede che nel suo entourage si usa warming up, si sta ancora scaldando. Ma guarda, Ibrahimovic vuole rimanere al Milan, lo ribadisce, non servono queste frasi ma si sente forte a dirle, perché quello che conta più che le sue frasi sono il suo modo di giocare, il suo modo di essere carismatico, è un giocatore fondamentale, non conto io, è quello che pensa la direzione tecnica, che proprio mi dicevano in questi giorni, la priorità non è Mark Rocha, Dumfries, Simakan, tutti chi volete voi, ma è il rinnovo di Ibrahimovic e di Donnarumma. Per loro, e secondo me hanno ragione, è ancora uno dei centravanti più forti in circolazione, e non è uno dei più forti, è il più forte a livello carismatico. Oggi la Juventus, con le difficoltà che si trova sul piano emotivo, su questo tipo di piani, insieme a Cristiano Ronaldo, avere invece che Higuain e Dybala, due grandi campioni, avere il carisma di Ibrahimovic, dico una frase forte, secondo me gli servirebbe di più. Frase forte Ti assumi la responsabilità. Beh, però sarebbe bello, Carletto, vedere insieme Ibra e Ronaldo, no? Ma certo, Ronaldo gli gira intorno, Ibra catalizza tutto, ma sai quanti gol farebbe di più? Non ho dubbi su questo. Carlo? Comunque l'importanza di Ibrahimovic è stato il fattore che ha rigenerato il Milan, poi bravissimo Pioli, cresciuti i giocatori, quello che vuoi, però non è una coincidenza che il Milan si sia acceso, lo dicevi tu prima Giovanni, prima della lunga pausa. Ibrahimovic anche quando non gioca cambia quella squadra lì, la cambia dalla panchina, la cambia con gli sguardi, possono sembrare dettagli, ma in una squadra che non aveva grande personalità, è quello che ha fatto tutta la differenza del mondo. Questa è la mia opinione. Facendo crescere i giocatori intorno. Il senso è quello. Perché bravissimo Pioli, però... Anche se forse la personalità non si paga questo. 6 milioni all'anno, come si dice, chieda lui al Milan per restare. Certo, e allora io chiedo a te che giocatore prendi al suo posto a livello di oggi? No, nessuno. A livello di carisma nessuno. Tu spendi 25 milioni per Depay o o ne spendi 12 lordi per Ibrahimovic? Io scelgo Ibrahimovic. Poi c'è chi ho preso Depay, che è un eccellente centravanti, classico, bravo, quello che volete voi, però è un centravanti nella sua grandezza, perché è bravo, normale, normale. Oggi al Milan, in questo Milan, serve di più Ibrahimovic che Lewandowski, che in questo momento è un campione straordinario, ma in questa fase di Milan Lewandowski è bravo perché si fa i suoi gol, però intorno a lui non ti fa crescere nessuno, è bravissimo e basta, secondo me. Io sono d'accordissimo su quello che ha detto Carlo, cioè tutti gli altri sono giocatori, magari grandi giocatori, Ibrahimovic fa qualcosa di diverso dal giocare semplicemente a pallone, è veramente quello che guida e che ha acceso la scintilla, ripeto, in quel gruppo lì che composto da buoni giocatori ma di non grande personalità li ha cambiati in maniera totale, e quindi se prosegui con questo piano Pioli, la conferma della squadra, la ristrutturazione di questa squadra, un tassello fondamentale è Ibrahimovic, ripeto, quando gioca, ma perfino quando non gioca, quando lo sostituisci e lui si incazza e sta in panchina e guida i compagni, eccetera, eccetera. È fondamentale la sua presenza fisica. Invece chiedo a Carlo Pellegatti come va a finire con Donnarumma. Oggi abbiamo visto le foto, il viaggio verso Monte Carlo per andare a discutere con Mino Raiola, che poi a sua volta si siederà al tavolo a discutere con il Milan. Io credo che questo sia, Carlo, il primo vero test per Gazzidis in questa nuova era del Milan. Un test non complicatissimo per un motivo, perché entrambi vogliono rimanere al Milan e già si parte secondo, quindi c'è la volontà, quindi per quello che riguarda Donnarumma si può magari chiedergli, io ti dico un po' di cose che so, non mi invento, magari chiedergli 5 milioni e mezzo invece che 6 con un bonus legato a 15 presenze e tu mi dirai chiamalo bonus, sì. Però è un modo di salvaguardare bilanci e di poi mettere i bonus facili, no? Se respiri ti do 500.000 euro in più come certo. Concetto. Ecco, quindi sicuramente. Sono quelle poi architetture per mettere insieme il bilancio, poi alla fine cambia poco nella busta, esatto, paga del giocatore. Cambia che il giocatore invece di prendere 6 prende 500 e se indossa una volta la fascia del capitano diventano 500 in più, sto esagerando. E quindi saranno un po' di complicazioni, poi si andrà a vedere la clausola, lui giustamente terrà una clausola bassa, perché se Milan arriva decimo e il prossimo anno si riprospetta un'annata così e così, è giusto che lui dica: signori, io sono uno dei più forti portieri del mondo, vorrei partecipare a una Champions League, vorrei arrivare negli ottavi di una Champions League, ma ci avrebbe ragione. E come dico sempre, Donnarumma va onorato, e come se tu avessi una meravigliosa donna, qualche gioiello e qualche gita a Portofino gliela devi concedere, perché se la porti solamente in un piccolo paesino, in una piccola trattoria, va onorata una bella donna. Certo, non basta la trattoria, la domanda è qual è quel limite di clausola bassa che il Milan può accettare? 30-40. Per non finire ostaggio, dico, tra qualche mese di Mino Raiola, quando poi magari i pensieri però, diventano diversi. E lo so, però giustamente bisogna anche, viene incontro magari non chiedendo l'aumento come in teoria, o quando c'è un contratto, un aumento, un ingaggio nuovo dovrebbe essere, è uno dei portieri più forti del mondo. Vedi un portiere bravissimo come Szczęsny, che ne prende 6, 7, tutte queste cifre. Cioè, però voglio dire, Donnarumma, vista l'età, vista l'esperienza, 200 partite, ho letto ieri che ha raggiunto Rijkaard e Van Basten. Sì, 200 partite di Milan, ha 21 anni e 5 mesi, correggimi se sbaglio. Cioè, stiamo veramente parlando di un giocatore che probabilmente a fine carriera sarà epocale. Esatto. Sì. Potrebbe superare la situazione, però non è molto diversa rispetto al rinnovo precedente, perché le incognite per questo sulla, dico che Carlo che è squadra, vero test, no? Come lo fu per Fassone da un certo punto di vista, e Mirabelli. Eh beh sì, la situazione del Milan non sì, è molto però, diversa da quella. Però là vero, ma mi sembra che ci sia una volontà generale, un approccio generale diversa alla situazione diversa. Ultimo tema che mettiamo sul tavolo è questo. Attenzione, io te ne suggerisco uno io da non sottovalutare, vai. Visto che è un giocatore importante. Nel 2021 c'è il contratto in scadenza di Çalhanoğlu, che ha appena cambiato anche procuratore e vorrebbe che fosse vorrebbe riguardare bene il suo ingaggio. Non sottovalutiamo, perché Milano potrebbe facilmente a gennaio perdere a una cifra a zero. E sarebbe un peccato, perché perso Suso con un po' più di libertà, Çalhanoğlu è diventato un giocatore profondamente diverso da quello che abbiamo visto nella prima fase della sua carriera al Milan. E ultimo tema che metto sul tavolo è questo, ed è un mio parere personale, la conversione, la conferma di Pioli, insomma tutto quello che abbiamo raccontato nei giorni scorsi, io credo debba essere accompagnato anche da una robusta riflessione sui giudizi negativi che sono stati dati anche dentro il Milan sul lavoro di Maldini, Boban, Massara. Adesso Boban non c'è più perché è stato licenziato, insomma conosciamo tutta la vicenda, però insomma alla fine credo che il mercato della scorsa estate, anche quello di gennaio, siano stati trattati fondamentalmente male anche dentro il Milan, mentre in realtà forse vanno rivalutati. Carlo, non so cosa ne pensi tu, Carlo Pellegatti. Guarda, io mi auguro solo una cosa, e capisci dalle mie parole cosa voglio dire, che si capisca nella prossima estate ben chiaro chi scelga i giocatori, chi li vuole, perché se tu mi dici dalle notizie che ho io chi ha scelto uno, chi ha scelto l'altro, eccetera, ho sempre delle voci discordanti. E allora io ti seguo, però vorrei che ci sia una bella univoca campagna rafforzamenti, chiari i rapporti, chiare i compiti, le mansioni, le scelte, e hai capito cosa vuoi. Che sarebbe già un grande passo avanti. Il primo è stato fatto, diciamo, dando continuità alla parte tecnica e all'esperienza di Pioli. Grazie Carlo. Un saluto a tutti, anche al nostro amico Carlo. Ciao. Ciao a Carlo Pellegatti. Allora, noi ci dobbiamo fermare per un minuto di pausa. Lo United è andato in vantaggio in casa del Leicester, quindi in questo momento sale al terzo posto. Tutto invariato invece sotto, se non perché il Watford ha ulteriormente accorciato le distanze dall'Arsenal, è sotto 3-2, ma è ancora in questo momento retrocesso. Un minuto, torniamo subito e parliamo di Varanatum. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Convocati. A parte il fastidio di vedersi annullato 4 gol, mi sembra che ho perso pure il conto. Però il VAR, e lo dico oggi, anche se va rivisto nella velocità, perché toglie le emozioni, però credo che abbia migliorato il calcio. Quindi oggi siamo noi penalizzati. Mi sono arrabbiato con un mio collaboratore che ha detto senza VAR avremmo vinto 3-1, mi sono arrabbiato perché c'è da 2 anni, quindi qualche volta ci è andato bene e oggi ci ha visto male, quindi è così e penso che sia, che valga per tutti, a volte ti premia, a volte ti ridà, a volte ti toglie. Oh, io credo che andrebbero incorniciate queste parole di De Zerbi ieri alla fine di Napoli-Sassuolo, partita a suo modo da record. Perché io non ricordo mai di aver visto 4 gol annullati a una squadra per fuorigioco e in questo caso 3 volte con l'intervento del VAR. Luca Marelli, ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Che dici? Direi che De Zerbi dimostra per l'ennesima volta di essere un uomo di grande intelligenza, perché ha capito quanto sia importante il VAR. Naturalmente sull'oggettività ormai ci siamo, nel senso che che riguardano posizioni geografiche non c'è più alcun dubbio, fuori gioco, dentro, fuori area. Chiaramente c'è la discrezionalità, non può essere eliminata, perché lo sappiamo, cioè, sulla valutazione di contatti tra giocatori è ovvio che non si raggiungerà mai l'accordo di tutti. Però Carlo, mi viene in mente ieri guardando Napoli-Sassuolo e anche sentendo poi le parole di De Zerbi, quelle che vi abbiamo riproposto, come sia sterile il dibattito sul fatto che il VAR sia in qualche modo una scelta che possa essere ripensata. e quindi non definitiva. Non puoi tornare indietro, ma dove vuoi andare? Ma indietro non puoi tornare, questo è evidente. Possiamo fare polemiche, possiamo essere contenti, gradirlo o non gradirlo. By the way, le parole di De Zerbi, hai ragione tu, da incorniciare, parlassero tutti così avremmo un sacco di problemi in meno. Credo che la disputa sia quella di mettersi a posto su questioni regolamentari, di protocollo, di uniformità, eccetera, e poi c'è il dibattito filosofico, caro Luca, sulla discrezionalità dell'arbitro. Se gliela vogliamo togliere completamente e arbitrare le partite dalla televisione è un conto, se vogliamo un calcio in cui l'arbitro mantenga la sua, secondo me, sacrosanta discrezionalità, allora si tratta di mettersi d'accordo poi sulle applicazioni. Luca? Sì, no, io sono d'accordo. Ti dirò di più però. Io sono per una invasività ancora minore del VAR. Cioè sulla valutazione di contatti, dei contatti tra giocatori, io interverrei ancora di meno di quanto si interviene oggi. L'unico parametro su cui bisogna veramente riflettere molto è quello sui tocchi di mano. Cioè bisogna pensare a qualcosa di differente, anche se onestamente non vedo qualcosa che possa mettere d'accordo tutti, perché alla fine su tanti episodi si discute sulla naturalezza o meno del movimento, ma se mettessimo un parametro di naturalezza in termini di centimetri, poi da un tot in poi diventerebbe comunque, ci sarebbe comunque la polemica, cioè 10 centimetri staccato dal corpo possiamo considerarlo naturale, sì, e poi dall'undicesimo centimetro cosa facciamo? Alla fine la soluzione sui tocchi di mano mi sembra abbastanza lineare, non sono neanche difficilissimi da interpretare. Per quanto riguarda l'entità dei contatti tra i giocatori, su quello non c'è modo di intervenire, perché comunque sarà sempre discrezionale, ma è normale, è la figura dell'arbitro che è discrezionale. La non discrezionalità dell'arbitro esiste soltanto in pochi sport, come il tennis per esempio. Sì, dove c'è da vedere se una pallina è dentro o fuori, e adesso c'è anche l'aiuto della tecnologia da qualche anno. Ieri, a proposito di discrezionalità, ci sono stati un paio di episodi in Genoa-Inter di scuola, poi la partita è finita 3-0, quindi non stiamo discutendo nulla a proposito del risultato, però sul gol di Lukaku, quello dell'1-0, ci sono state delle proteste dei giocatori del Genoa per il modo in cui Lukaku si è liberato di Zapata, che da campo non è, credo, mai fallo, questa è la mia opinione, Luca. Televisivamente può diventare materia di dibattito, come abbiamo visto accadere in tante altre occasioni in questa stagione. Tu ormai il mio metro, voi ormai il mio metro lo conoscete abbastanza bene. A mio parere sul gol di Lukaku non c'è materia di discussione, né dal campo né rivisto, è veramente un contatto minimo, come ce ne sono mille. Se dovessimo veramente scendere ad analizzare tutti questi episodi, le partite finirebbero tutte 0-0, non sarebbe più calcio, sarebbe veramente un giochino da PlayStation che non piace a nessuno. Il gol di Lukaku, a mio parere, non c'è macchia, non c'è ombra, è un gol regolarissimo. Zapata, una volta che si è trovato in difficoltà e in ritardo di Lukaku, si è buttato un po' per terra per cercare di trarre in inganno l'arbitro. Ecco, questo è quello che posso, questo è il mio pensiero su quello che è successo ieri. Invece è ancora un po' più di scuola, e mi piace sapere cosa ne pensa Luca Marelli, ma anche Carlo Genta, l'altro episodio, e cioè quel doppio tocco di braccio, prima Gagliardini, poi Pinamonti a cavallo della linea dell'area di rigore. Quindi tecnicamente, se poi uno vede fallo, può intervenire il VAR, può concedere il calcio di rigore. E qui siamo veramente, Luca, in una zona grigia, perché ne abbiamo visti tanti di rigore su tocchi di braccio fuori posizione dati in questa stagione, anche con contrasti ravvicinati, anche con palloni parzialmente inattesi. Sì, però questa mi sembra veramente, io l'ho vista proprio come una carambola molto casuale tra Gagliardini e Pinamonti. Cioè su Pinamonti non c'è neanche a discutere, perché sappiamo che volontario, involontario, casuale, non casuale, nella circostanza, se avesse segnato Pinamonti sarebbe stato annullato. Da discutere al limite la posizione delle braccia di Gagliardini, ma a mio parere è giusto che l'arbitro abbia lasciato proseguire, che il VAR non sia intervenuto. Questi sono episodi sui quali si può tranquillamente sorvolare, anche perché veramente se dobbiamo considerare anche questi, poi i rigori veramente diventano 300. Sì, sì, l'importante, Carlo, è che poi ci sia il più possibile uniformità, no? Ma chiaro, l'uniformità è il concetto di base, è il concetto fondamentale. Poi secondo me comunque bisogna cioè il parametro è anche sempre, a proposito di questo episodio, quello del vantaggio procurato. Che vantaggio ti procuri? Che vantaggio può procurarsi il difensore in un tocco di mano? Io sto continuando a pensare a quel rigore che c'era nettissimo dato alla Juventus, quello di Muriel, il secondo. Cioè, che vantaggio ti procuri? Nessuno. È semplicemente un lapsus del giocatore in quel momento lì. Quindi anche questo principio del vantaggio che comunque ti arroghi con un certo intervento dovrebbe avere un peso specifico maggiore. Non so cosa ne pensa Luca. Ma guarda, io sono per l'applicazione del regolamento, e tutto sommato, se il regolamento è questo da oltre 100 anni, probabilmente perché è giusto così. Cioè, dobbiamo fare sempre l'esempio estremo. Che vantaggio ha un giocatore che col pallone a centrocampo colpisce con un pugno un avversario? Nessuno. Però è chiaro che questa è un'espulsione calcio di rigore. È lo stesso motivo per cui all'Inter, Strefezza e Handanovic è calcio di rigore, perché è vero che nel caso in cui non ci fosse stato contatto, Strefezza non avrebbe mai potuto giocare il pallone, ma è anche vero che il regolamento del gioco del calcio prevede la possibilità di un contatto e l'unico presupposto è quello che il pallone sia sul terreno di gioco. Cioè, io credo che quello che dobbiamo pensare è sistemare qualcosa, perché per esempio sul palo di mano le regole per gli arbitri, le norme di applicazione, le regole di ingaggio, chiamiamole così, sono molto chiare in ambito arbitrale. Sono un po' meno chiaro fuori perché è stato spiegato male. È stata spiegata male la revisione della norma, non la modifica, la revisione, la dicitura, la scrittura. Però sul resto, secondo me, ci siamo. È chiaro che comunque, se invece il dibattito dobbiamo fondarlo solo e esclusivamente sulla discrezionalità, allora non usciremo mai, perché la discrezionalità è impossibile togliere. Io sono ho un'idea che mi gira per la testa da un po' di tempo, che ogni tanto bisogna anche mutuare da altri sport. Nel basket, per esempio, c'è il concetto di floating, che è una sorta di simulazione. Nonostante un contatto ci sia, il giocatore viene punito con un fallo tecnico. Ecco, io sono di questa idea che la simulazione per troppi anni, questi, soprattutto negli ultimi 20 anni, è stata intesa come un tentativo di ingannare l'arbitro, ma senza contatto con i difendenti. Ecco, io sono invece per un'idea un pochino più aggressiva nei confronti degli attaccanti, cioè quella di punirli anche in presenza di un contatto se accentuano eccessivamente un contatto. Se fosse applicata questa regola, una regola di questo genere, i rigori di quest'anno invece di 160 sarebbero stati 110. Saremmo stati in un numero più vicino alla normalità. Grazie Luca. A voi, buon lavoro. Ciao Luca. Grazie Luca. Ciao. Varela. Intanto, Carlo, sta succedendo di tutto a Bologna. Ha pareggiato il Lecce con gol di Falco al 21esimo del secondo tempo, tra l'altro molto bello, di sinistro, palla sotto l'incrocio dei pali. Ma la verità è che il secondo tempo è un assedio del Lecce alla porta del Bologna, e anche dopo il 2-2, dopo pochi istanti, il Lecce ha avuto una clamorosa chance per portarsi sul 3-2 con un colpo di testa di Falco da cortissima distanza, palla che si è persa di un filo alla sinistra della porta del Bologna, e dunque saranno molto palpitanti gli ultimi 22 minuti. Adesso parliamo di MotoGP. Quartararo c'è, un'altra volta, Quartararo c'è, due volte, una dopo l'altra vince, davanti a Maverick Vignale. Se Valentino Rossi torna sul podio, Valentino Rossi torna sul podio, tripletta Yamaha, abbiamo dentro Valentino, quelli che dicevano è bollito, eccolo qua, oggi ha risposto con una guida che ha avuto dentro di tutto, spettacolarità, velocità, delicatezza, delle staccate imbarazzanti, dell'astuzia, dell'intelligenza, dell'esperienza, capolavoro Quartararo. Buona gara per Maverick Vinales, che però aveva come obiettivo Quartararo, e Rossi, che invece gli altri due come obiettivo credeva di non averceli, ha fatto di più di quello che doveva. Insomma, non è stato banale nemmeno il secondo weekend della MotoGP, sempre a Res della Frontera. Saluto Roberto Ungaro, ciao Roby. Ciao Giovanni. Ciao Roberto. Intanto abbiamo un nuovo cannibale nel moto mondiale. Sì, questo ragazzo francese che è un po' praticamente un passaggio di testimone ufficiale, perché oggi vederlo con Valentino sul podio, innanzitutto, vabbè, è la notizia che tre Yamaha nei primi tre posti, pur se si è rotto anche un motore e quindi c'è qualcosa da capire. Altrimenti sarebbero state quattro. Esatto, altrimenti sarebbero state 4. Però è bello vedere questo ragazzino così giovane che si ripete, quindi gestisce bene la vittoria di domenica scorsa a livello psicologico, cioè riesce a rimanere molto freddo tra i grandi, e vedere queste due generazioni sullo stesso podio. Lo stesso Quartararo ha detto che, se ricordo, la sua prima gara a Jerez, che era venuto a vedere, era il 2005 quando Valentino diede la spallata a Gibernau, ve la ricordate, e poi vinse il mondiale quell'anno. Ecco, essere su quel podio insieme al suo amico è un passaggio di consegne ufficiale, direi. Abbiamo questa conferma, questo nome nuovo. Sai che per un momento ho pensato che Robby Ungaro, parlando di passaggio di consegne, si stesse riferendo a Marquez Quartararo? No, no, secondo me ho avuto un attimo, è molto presto ancora, perché Marquez, ricordiamoci quello che ha fatto domenica scorsa, cioè quando è rientrato, come passava i suoi avversari, cioè faceva un altro sport quel ragazzo, eh. Lui, lo stesso Quartararo, non tanto tempo fa, ha ammesso: lui gioca, sta giocando con noi, cioè sono tutti consapevoli del potenziale di quel ragazzo, del margine che ha. Poi è chiaro che rischia e paga le conseguenze, come domenica scorsa. Però ecco, vederlo rientrare e recuperare quelle posizioni, vi ricordate la gara che fece in Moto2 quando partì per ultimo e poi andò a vincere? Se quella cosa lì succede solo se sei un fenomeno, cioè se tu sei veramente di un altro pianeta. E quindi direi che è presto, sarà molto divertente il rientro a Brno, con un market che speriamo al 100%, allora si vedrà della battaglia. E io spero come sta, però, un po' meno noiosa. Dimmi, Carlo. Vediamo come sta però Marquez, perché insomma l'infortunio che ha avuto è stato serio, tanto che se non ha corso perché proprio non ce la faceva. Esatto. A questo punto parte da zero contro 50 di Quartararo. Questo non ha ovviamente ha avuto un upgrade chiarissimo tra la prima vittoria e la seconda, si è tolto la scimmia dalla spalla, adesso ci crede. Beh, non mollerà lo scettro tanto facilmente, detto che quell'altro fa un altro sport. No, però no, almeno ci divertiamo un po' per qualche gara. Con così poche gare il campionato è seriamente compromesso per Marquez, perché 50 punti da recuperare sono tanti. Io quello che spero però è di tornare a vedere delle gare un po' più divertenti, perché quella di oggi è stata una gara abbastanza noiosa, pochi sorpassi, gli unici colpi di scena sono state le rotture. Ecco, un peccato davvero con la P maiuscola per Pecco Bagnaia, perché quando era al secondo posto e sembrava messo bene, perché girava bene, di passo, costante, era la volta buona, purtroppo la moto l'ha lasciato. Allora, abbiamo il traffico, poi parliamo di Valentino Rossi, che oggi è tornato sul podio un anno, 3 mesi, 14 giorni dopo l'ultima volta ad Austin, era il 14 aprile del 2019, sono passate 17 gare. Ma oltre alla gara e al suo podio è stato frizzante e interessante anche il post gara, con quello che ha detto sulla Yamaha. Una puntata davvero eccitante, piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Tutti convocati. Visto che ci sono, mi devono aiutare, e visto che ci sarò anche l'anno prossimo, pure, ecco. Quindi io ho bisogno che credano in me e che lavoriamo, perché io quando scendo dalla moto sono un pilota molto preciso, do delle indicazioni buone, sento quello che succede, e però abbiamo dovuto lottare 4 giorni per fare quello che volevamo. E se avessimo mollato sarebbe stato un altro weekend come la settimana scorsa. Adesso non voglio metterti in difficoltà con la casa che ti dà la moto, ma perché devono fare difficoltà? Te lo dico subito, perché c'hanno Vignales e Quartararo che vanno fortissimo, e io ho 41 anni e quindi mi dicono: impara a guidare questa. Il graffio di Valentino Rossi, no Carlo? Cioè, c'è andato, non è andato leggerissimo. Pesantissimo, io credo che in quello spogliatoio negli ultimi giorni siano davvero volati gli stracci, perché Valentino raramente ci è andato giù così pesante, ma raramente chiunque ci è andato giù così pesante. Mi sembra che la situazione sia molto chiara, la moto non è fatta per lui, però lui dice: io sono sempre Valentino Rossi, mi volete anche l'anno prossimo e magari quello dopo, beh, se è così, allora datemi una moto che io sono in grado di guidare. Robby, io facevo due riflessioni ascoltando Valentino Rossi. La prima è che Valentino Rossi è Valentino Rossi, quindi può permettersi di dire cose che probabilmente un altro pilota non potrebbe mai dire sul suo costruttore, su chi gli dà la moto. E la seconda è che credo che questo sfogo, più che per questa stagione, alla quale Valentino Rossi ha zero da chiedere se non qualche soddisfazione sporadica, sia magari fatta pensando all'anno prossimo, perché poi noi ci stiamo accorgendo che le Yamaha clienti vanno veloci, vanno anche più veloci di quelle ufficiali, e quindi magari Valentino dice l'anno prossimo, visto che no, avrò comunque una moto competitiva, voglio essere sicuro di poter fare una stagione di un certo livello. Allora, il problema specifico è nato con la nuova gomma posteriore, è una gomma che ha dato un cambiamento agli assetti e Valentino non si è mai trovato. Apro un inciso, non mi sembra che sia così strano che il team segua le indicazioni dei più veloci, da sempre è stato così, che è davanti detta legge, e quindi non bisogna stupirsi di questo. Il problema della gomma, Valentino ha insistito chiedendo degli assetti terzi, quindi anche la gestione all'interno è stata molto difficile, e però ha avuto ragione, perché sono andati indietro nel tempo, hanno usato un assetto vecchio che ha ripagato in termini di resa, e quindi Valentino ha avuto ragione, adesso non so quanto anche gli altri abbiano seguito questo vecchio aspetto che sfrutta meglio la nuova gomma, però in questo frangente ha avuto ragione, i risultati gli danno ragione. L'altro problema però, lasciatemelo dire, è quello dell'affidabilità, perché hanno già punzonato tutti i motori a disposizione, hanno avuto tante rotture e quindi in Giappone è suonato il campanello d'allarme, devono far fronte a questo problema. Tra l'altro vedere anche una moto che sfuma come quella di Pecco Bagnaia, siamo ritornati indietro nel tempo, vi ricordate quei motori che saltavano, era un po' che non si vedeva, no? E riguardo a quello sappiamo che Valentino è Valentino, è logico che lui vuole essere competitivo, lui comunque ha anche ammesso che aveva persino pensato di ritirarsi poco tempo fa, poi l'hanno aiutato il team, il suo l'entourage di ragazzi, l'accademia che ha, sono stare lì e fare, e alla fine è riuscito e rimane lì. Valentino, il podio per Valentino è sempre alla portata di mano. Io quello che dico è che è difficile che riconquisti il risultato massimo e che riesca a prendere quel benedetto titolo, perché i tempi sono cambiati, adesso non c'è più solo Marquez, ma c'è anche un Quartararo. Sì, ed era sufficiente Marquez per quello che si è visto, esatto, negli ultimi anni. Esatto, invece lasciatemi dire che mi fa tristezza vedere Vizioso arrivare sesto, perché si autoeliminano gli altri davanti. Ecco, la Ducati vederla così, a parte la rottura, poi Petrucci, insomma. Ma è un problema che ad esempio può essere risolto cambiando adesso piste, oppure la Ducati di quest'anno è questa? Questa non è pista per la Ducati, per la Ducati lo sapevamo, in grave difficoltà, però importanti anche le parole di Dovizioso, anche lui non le ha mandate a dire dopo la gara, quando ha detto siamo partiti da zero, cioè tutto quello che avevamo provato prima del lockdown, è come se tutto quello si fosse azzerato. Io non sono d'accordo con il lavoro che stiamo facendo in questo momento, perché stiamo facendo lavori grossi, strutturali. Secondo me dovremmo lavorare in altro modo. Anche le parole di Dovizioso sono state non banali, Roberto. È vero, e comunque la situazione in quella squadra lì è pessima, perché c'è un pilota che è già uscente, e quindi immaginati come può essere questa stagione per Petrucci. Il Dovi che comunque non ha firmato, e quindi sono ancora lì di fronte a sta firma, ci sarà, non ci sarà, lo vogliono, non vogliono, cioè mentalmente non è facile una gestione del genere da gestire, sia per i piloti sia per la squadra, e quindi meno male ci sono i due di Pramac, che però Miller è quello che è, perché è un animale, fa il colpaccio ma poi si sdraia, cioè è un pilota poco costante, e quindi Pecco lo stiamo aspettando, è già in ritardo, ecco perché dico peccato, perché potrebbe essere la volta buona, e tra l'altro deve rinnovare anche il contratto, insomma bisogna capire, perché fino adesso i risultati sono stati abbastanza deludenti di Bagnaia, se guardiamo l'anno scorso, quindi Ducati deve risolvere questa situazione, non è facile, non ci sono piloti liberi, e poi la moto ha dei problemi, perché non può non essere sempre competitiva, cioè alti e bassi così, così marcati è un problema quando punti al mondiale. E ricordiamoci che Ducati arriva da secondi posti consecutivi, che è tolto Marquez, è una moto che avrebbe portato a casa già diversi mondiali, quindi deve ambire al risultato massimo, cioè deve portare a casa un mondiale Ducati. E questa è una stagione partita chiaramente con il piede sbagliato. Grazie Roberto. A voi, ciao Giovanni. Ciao, grazie Roberto. Ungaro. Allora, noi siamo arrivati alla fine, Carlo. Rapido riepilogo, siamo negli ultimi 10 minuti di Bologna-Lecce, risultato ancora fermo sul 2-2, ma è una partita in questo momento apertissima. Partita che serve a Lecce in caso di vittoria per riavvicinare il Genoa, poi dalle 19.30 Verona-Lazio, Roma-Fiorentina, Spal-Torino-Cagliari-Udinese. Ore 21.45 Juventus-Sampdoria, che racconteremo nel corso della serata di Radio 24 con Dario Ricci. Siamo negli ultimi istanti invece per tutto ciò che accade in Premier League. In Champions andranno Manchester United e Chelsea. Il Manchester ha battuto 2-0 il Leicester nello spareggio. Retrocede invece il Watford della famiglia Pozzo, che va dunque in Premiership. Io ringrazio Edoardo Lavezzari in redazione, Valeria Bernardi e Filippo Aureggi, che si sono alternati in regia. L'appuntamento con tutti i convocati è domani dopo il GR delle 14. Tutti i convocati weekend torna invece domenica prossima in diretta alle 17. Ciao! Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti! Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.